Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Questo racconto retorico è un po' stanco, per cui dobbiamo riportare a casa i ragazzi che se ne vanno. È un ragionamento che non ha senso. L'Italia deve investire su un proprio sistema di ricerca che sia più in grado di attrarre e sia in grado di offrire a quei ragazzi, a quegli scienziati che vogliono tornare indietro, delle occasioni, se vorranno tornare indietro. Ma il nostro obiettivo non è riportarli indietro. In altri termini, ormai siamo interconnessi, tutto è globale. Cosa può mettere l'Italia in più rispetto agli altri? La qualità del capitale umano. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La riconnessione tra l'Italia e i suoi giovani espatriati oggi in primo piano. Ma per cominciare, siete d'accordo con quanto ha detto il premier Renzi nella sua recente trasferta americana? È davvero così stanco e retorico questo racconto della fuga dei cervelli, o meglio, questa retorica trita e ritrita, per usare le parole del premier? Dite la vostra, giovanitalenti@radio24.it. A proposito di riconnessione, a Giovani Talenti la storia di un giovane professionista emigrato oltreoceano per lavoro, che ha però deciso, nonostante tutto, di non tagliare i ponti col proprio paese, anzi, approfittando di un programma regionale, ha persino aperto la propria startup qui. Non dimenticatevi neppure che prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Per quattro di voi un pass per Strasburgo, restate sintonizzati per tutti i dettagli. E la frase della settimana è copyright di Mario Draghi, presidente della BCE. La disoccupazione giovanile è una tragedia. Durante la grande recessione si è perso il 5% di reddito reale dei giovani. I governi devono investire in educazione e competenze, che rappresentano il passaporto di una persona per la vita, in un'economia digitale dove l'importanza delle competenze è destinata a crescere. Così dice Draghi, unendo problema e soluzione. Sempre per Draghi, l'alta disoccupazione giovanile in Europa, che colpisce la generazione più istruita di sempre, rappresenta un vulnus significativo e per evitare una generazione perduta dobbiamo agire velocemente. Avere un impiego al di sotto delle proprie competenze, persino in Lombardia, appare una realtà largamente diffusa. Capita quasi a un dipendente su 5 con ricadute umane e aziendali. E ad essere penalizzati sono soprattutto donne, stranieri e giovani laureati. E quanto emerge dalla ricerca le azioni di social investment a Milano della Camera di Commercio? La ricerca ha censito in Lombardia 558.000 lavoratori sovraqualificati, metà sono laureati. Il primo fattore che discrimina fortemente i lavoratori sovraqualificati è l'età. Il fenomeno tende a interessare maggiormente le persone tra i 25 e i 34 anni. Intanto l'Istat rileva sono oltre 2,3 milioni i 15-29enni inattivi, in leggero calo, incidenza più elevata tra le donne e nel mezzogiorno. Confidiamo allora nelle giovani imprese innovative realizzate anche dai nostri giovani espatriati per ribaltare questa statistica? Ci sono diverse cose che vedo potrebbero essere fatte per poter ripartire dal punto di vista economico e anche sociale. I problemi principali sono dovuti agli investimenti fatti sulla ricerca e sull'innovazione. Alessandro Piccioni, 28 anni, è consulente per una multinazionale negli Stati Uniti, ma soprattutto start-upper di rientro in Italia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Sognano sempre l'estero i giovani italiani. La conferma arriva dalla recente due giorni dello Young International Forum, cui hanno preso parte 5.000 ragazzi dell'Italia centrale. Oltre ai paesi anglosassoni, in cima alle preferenze di espatrio si colloca la Francia. Da nord a sud sono stati 10.500 i reggiani che dal 2007 al 2013 sono emigrati all'estero. Di questi la gran parte è under 45. Una fuga di talenti a tutti gli effetti, se si tiene conto che il 31% di loro è in possesso di laurea. Il dato è emerso dal report annuale della CISL Emilia Centrale. In Sicilia invece un emigrato palermitano su 5 va all'estero, lo rivela l'analisi statistica demografica del capoluogo siciliano. Gli italiani che nei prossimi anni conseguiranno una laurea saranno il 34% contro una media OCSE del 50 e una media europea del 42, e se l'Italia spende in media 10.000 euro a studente ammontano a oltre 15.000 euro la media OCSE, quella comunitaria. Sono alcuni dei dati diffusi dalla conferenza dei rettori. Il nostro paese va in controtendenza dal 2010, quando gli altri paesi OCSE hanno incrementato la spesa in istruzione pubblica mentre l'Italia l'ha diminuita. Intanto restano le più basse economicamente nell'Europa occidentale, calano pure di numero le borse universitarie italiane, a certificarlo la ricerca della Fondazione Agnelli, secondo cui le borse tricolori sono scese del 9% tra 2007 e 2014, mentre in Spagna sono cresciute del 55%, in Germania del 32%, in Francia del 36%. A beneficiarne nella penisola solo 138.000 studenti, il 12% degli studenti regolari, lo rivela la Repubblica. E purtroppo per un giovane italiano su due, studente o laureato, l'università non prepara adeguatamente a entrare nel mondo del lavoro, secondo una ricerca del gruppo San Pellegrino. Poca esperienza maturata, scarsa propensione delle aziende ad assumere, settori di interesse saturi, queste alcune delle difficoltà individuate dai giovani italiani. The Debutto per Massimo Inguscio, nuovo presidente della CNR. Giovani e meritocrazia al centro della sua azione, e ce n'è davvero bisogno nel mondo della ricerca italiana. Bisogna tornare a rendere la ricerca pubblica italiana un posto attraente per i nostri cervelli e per quelli che dall'estero guardano a noi e vorrebbero venire nei nostri centri di eccellenza, ha detto. Sentiamo la sua dichiarazione all'agenzia di stampa Ascanews. Reclutamento di ricercatori giovani, competitivi, con meritocrazia, perché la politica di reclutamento è gran parte la politica di ricerca, perché da lì scaturisce anche poi, è un investimento, perché investendo sui giovanissimi si investe sulla fantasia e poi sulla capacità di attrarre fondi di ricerca e tutto. Poi strategie di dove si vuole andare a operare, quindi questi reclutamenti verranno anche fatti, diciamo, tenendo conto delle aree che stiamo individuando come le più prioritarie, le più importanti, le più promettenti. Ha debuttato la campagna EU Factor, nata per avvicinare i giovani allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informatica. Si calcola che tra 2013 e 2025 in Europa saranno circa 2,3 milioni i posti di lavoro disponibili solo nel campo delle scienze e dell'ingegneria. Tutte le info su eufactor.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta oltreoceano, dove nascono, così abbiamo scoperto, interessanti idee per aprire imprese innovative in Italia. Nome: Alessandro. Cognome: Piccioni. Età: 28 anni. Città di origine: Perugia. Studi: London School of Economics e MIT. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2009 per la prima volta, 2013 la seconda. Per andare dove? La prima volta a Londra, la seconda volta a Stati Uniti, Boston. Perché? Entrambi i casi per motivi di studio, nel secondo caso poi sono rimasto per lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Manager and consultant e imprenditore. Dove? New York. Tornerai? Dipende da mia moglie. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Sono emigrato per la prima volta in Gran Bretagna per motivi di studio, la seconda volta verso gli Stati Uniti, considerate invece le condizioni non proprio floride dell'economia e del mercato del lavoro. Alessandro, così ricordi il tuo doppio espatrio nella tua ancora breve carriera. Siamo evoluti e ci stiamo evolvendo così, ti chiedo, si parte la prima volta per formarsi e la seconda per cercare un futuro e opportunità migliori all'estero? Sì, assolutamente, è una pratica abbastanza comune quella di lasciare l'Italia la prima volta per potersi formare all'estero e avere un curriculum universitario di caratura internazionale, e poi se possibile molto spesso si rimane qui all'estero grazie alle condizioni lavorative migliori che si vengono a verificare. Dopo la maturità classica opti per studiare economia a Perugia, perché questo cambio così radicale di settore? Nella mia mente non è stato un cambio radicale, perché già la decisione di frequentare il liceo classico non aveva la prospettiva di rimanere nel campo umanistico. Volevo però avere un mindset classico e umanistico che penso sia molto importante perfettamente, per lo sviluppo di sì, tutte le altre. Perfettamente comprensibile. Ti laurei in soli 2 anni a tappe forzate. Diamo subito un voto da 1 a 10 all'università italiana. Dal punto di vista nozionistico e della conoscenza pura, 9. Dal punto di vista del problem solving e della crescita personale, un 2. Un po' basso. Non ancora 21enne, decidi a quel punto di trasferirti a Londra per proseguire gli studi. Perché non l'Italia? Volevo lavorare, quindi uno dei vantaggi che il master a Londra mi dava era la durata di un solo anno e poi la caratura internazionale della scuola. E nel 2009 vieni ammesso alla prestigiosa London School of Economics. Quali differenze hai riscontrato nel metodo di studio e insegnamento tra Italia e Gran Bretagna? Una delle differenze principali si riconnette al voto che ho dovuto ahimè dare all'università italiana. E la differenza principale è quindi legata al fatto che il problem solving nel modello anglosassone ha un'importanza molto molto elevata e è al centro del modello di apprendimento. La praticità, al di là della teoria, la pratica. Allora, Londra rappresenta, al di là dello studio, un periodo importante anche per il tuo futuro professionale, e dopo un anno e mezzo ti laurei in finanza e a quel punto sei a un bivio: entrare nella finanza della City o puntare sulla consulenza strategica. Scegli la seconda strada, perché? A 21 anni è abbastanza difficile avere un'idea già definita di cosa si voglia fare nella vita, quindi management consulting mi dava la possibilità di lasciare aperte molte strade, molte porte e poter guardare all'orizzonte dei 2-3 anni con più facilità. Beh, senza contare anche proprio questa seconda strada ti riporta in Italia, a Milano per la precisione. Perché accetti la sfida? In pochi lo fanno, del rientro lavorativo in Italia e per occuparti di cosa? C'erano diversi motivi per cui ho deciso di fare questo. Il primo motivo era un motivo personale, perché la mia futura moglie si stava trasferendo a Milano e quindi avevo piacere di stare nella stessa città, e allo stesso tempo l'offerta che mi era stata fatta da Bain & Company era un'offerta molto allettante dal punto di vista di crescita professionale. Quale Italia trovi professionalmente parlando al tuo ritorno? Quello che ho notato era un'Italia abbastanza in difficoltà a causa della crisi economica, quindi anche tutti i progetti che ci trovavamo a fare e con cui cercavamo di aiutare le aziende per cui lavoravamo erano progetti di, per così dire, sofferenza e di performance improvement. Chiaro. A Milano contavi di rimanere a lungo termine, e allora ti chiedo, perché nel 2013 riparti, questa volta per gli Stati Uniti? I primi 2 anni a Milano sono stati ottimi, ho imparato molto dal punto di vista professionale, sono cresciuto dal punto di vista personale grazie a ottimi mentori che ho trovato lungo la via nei primi 2 anni di carriera, ma allo stesso tempo ho sempre sentito questa voglia di internazionalizzare la mia figura professionale, e soprattutto ho sentito anche la voglia di lavorare in un ambiente che guardasse più al futuro e alla crescita rispetto al presente, al passato e alla crisi. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandro Piccioni, 28enne management consultant negli Stati Uniti e imprenditore innovativo in Italia. Due vite parallele che Alessandro porta avanti dopo una formazione estremamente internazionale, accompagnata da esperienze di lavoro tra la penisola e gli Stati Uniti. Oggi il tema Giovani Talenti è quello della riconnessione con l'Italia e come fare se siete espatriati. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Oltre oceano ti aspetta un MBA di 2 anni nel prestigioso Massachusetts Institute of Technology, sponsorizzato dalla tua stessa azienda. Allora, quale ambiente di studio trovi in uno dei centri nevralgici dell'educazione a stelle e strisce? Quali differenze con l'Europa? Le differenze sono state abissali, devo dire, non mi aspettavo una differenza così ampia fra Europa e Stati Uniti. È stato un salto avanti di qualche anno, devo dire, soprattutto dal punto di vista tecnologico e digitale. Gli anni all'MIT sono estremamente proficui, vinci una competizione della Business School, lavori come teaching assistant nel Dipartimento di Economia e Finanza, sperimenti il ruolo di investment manager per una banca d'affari, poi ti laurei neanche un anno fa e resti a lavorare a New York. Di cosa ti occupi adesso? Mi occupo ancora di consulenza strategica, mi occupo di media e tecnologia. Veniamo al punto adesso. L'estate 2015 è ricca e prolifica per te. Ti iscrivi a una startup competition italiana. Ci spieghi quale idea presenti di impresa innovativa? L'idea alla base di Pitch Talent è molto semplice. Cerchiamo di diffondere la cultura a un pubblico ampio e variegato. Il Pitch Talent è un community marketplace che si pone l'obiettivo quindi di mettere in contatto studenti ed insegnanti attraverso una piattaforma digitale, attraverso un motore di ricerca che permette di scegliere disciplina, area geografica e un ranking attraverso un sistema di feedback sicuro e autorevole. E allora il progetto Teach Talents che presenti con un tuo socio vince la competizione di Brainback Umbria, e quali saranno i prossimi passi e dove state cercando i capitali innanzitutto? Abbiamo avuto questo primo round di seed capital da parte di Brainback Umbria. In questo momento siamo già arrivati ad un numero elevato di dipendenti, quindi 12, e stiamo cercando di espanderci nelle principali città italiane e anche in Spagna e in Gran Bretagna. La nostra domanda di rito per te: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Ci sono diverse cose che vedo potrebbero essere fatte per poter ripartire dal punto di vista economico e anche sociale. I problemi principali sono dovuti agli investimenti fatti sulla ricerca e sull'innovazione. Non c'è un chiaro nesso fra il mondo universitario e il mondo professionale. Ci sono gravi problemi dal punto di vista della tassazione e della burocrazia per quanto riguarda l'inception di nuove imprese. Ci raggiunge ora in linea Anna Scani, direttrice dell'agenzia Umbria Ricerche. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, Anna Scani, con Brainback Umbria avete già finanziato l'avvio di 16 startup con sede in regione aperte da giovani umbri con esperienza all'estero. State riscontrando un interesse forte verso una riconnessione tra giovani espatriati e l'Italia o comunque la propria regione di provenienza? Sì, c'è un forte interesse verso questa riconnessione con la nostra regione. Noi abbiamo già 1500 contatti con umbri all'estero che giornalmente ci inviano notizie, suggerimenti, idee su come migliorare l'economia oppure l'università e centri di ricerca nella nostra regione. Questo, c'è una circolazione di idee. Questo è ottimo, abbiamo già parlato anche negli anni scorsi di Brainback Umbria, però ricordiamo in breve come funziona questa competizione e i vantaggi per chi vi partecipa. Dunque, questo è un concorso di idee, a breve apriremo nuovamente il bando, possono partecipare gli umbri, i residenti all'estero oppure i laureati dell'Università di Perugia e l'Università per Stranieri di Perugia che abbiano maturato un'esperienza all'estero di almeno 2 anni e vogliono avviare un'impresa nel nostro territorio. Diamo un grant di 20.000 euro, pari all'80% dell'investimento ammesso, è un bando a sportello, comunque per accedere al finanziamento devono superare una soglia minima che ci dimostri la sostenibilità dell'iniziativa. Allora, ben 16 startup avviate, le storie sono tante e diverse, però ti chiedo, c'è un identikit, un profilo base di questi imprenditori controesodati, sia a livello di formazione che di tipologia imprenditoriale? L'identikit base, che sono tutti laureati, la maggior parte hanno un master, sono all'estero da almeno 6 anni e l'età media è 35-36 anni. E questa voglia di mettersi in gioco, investire nella nostra nazione nonostante i problemi che ci sono. Gli incentivi alla creazione di aziende locali da parte di umbri espatriati non sono il vostro unico focus. In breve, quali altri progetti avete sviluppato? Abbiamo cercato di collegare i nostri talenti all'estero con le imprese del territorio per far modo che si internazionalizzassero. Perciò sono state organizzate 3 business visit nei settori prevalenti della nostra economia. Allora vi faccio un grande bocca al lupo a Anna Scani e l'agenzia Umbria Ricerche, siete una delle best practices a livello regionale in tema di riconnessione tra giovani espatriati e la regione di provenienza. E la domanda di rito per Alessandro Piccioni: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Bella domanda, io direi fatelo, perché è un'esperienza, quella dell'espatrio, quella di arrivare in un paese nuovo, che cambia la vita e fa crescere molto dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano. Prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 14 maggio e che da quest'anno vi chiede di immaginare la vostra Europa. Sceglieremo 4 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni e dovete inviare da ora fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana: indicateci una proposta in 140 caratteri per incrementare le possibilità di mobilità in Europa per studio, lavoro o volontariato. Quindi possibilità di mobilità in Europa, studio, lavoro o volontariato. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di domani. Nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave, che questa settimana è Europa 16, ripeto, Europa 16. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi portiamo ancora una volta agli antipodi, raccontandovi un progetto creato da italiani per i connazionali che immaginano un espatrio di studio in Australia, con in mente un futuro, perché no, anche lavorativo. Facciamo rotta su Melbourne, Ilaria Gianfagna, cofondatrice di Just Australia. Abbiamo visto semplicemente che era molto difficile capire un po' come orientarsi nelle dinamiche lavorative, ma anche per quanto riguarda i visti in Australia, E da lì abbiamo pensato che c'era bisogno, secondo noi, almeno a Melbourne, di un info point. E quindi da qui nasce l'idea. Ecco, voi aiutate sia trasferimenti per studio e per lavoro sostanzialmente. Esatto, facciamo fondamentalmente due cose. Allora, la prima cosa è quello dell'InfoPoint gratuito, quindi un luogo fisico dove tutti gli italiani, ma anche di altre nazionalità, possono passare in centro a Melbourne e chiederci tantissime informazioni. E poi invece per chi vuole saperne di più proprio sul fronte immigrazione, quindi immigrare, noi non possiamo farlo e ci affidiamo a uno studio di avvocati che si occupano proprio di immigrazione. Come vedete l'immigrazione di giovani italiani in Australia? È in crescita innanzitutto? Sì, allora guarda, stavo guardando un po' di dati sul sito dell'immigrazione, perché il sito dell'immigrazione australiana è molto aggiornato e anche fatto molto bene e pubblica ogni 3 mesi dei report. E vedevo che insomma sono circa 16.000 italiani ogni anno che entrano con un visto vacanza lavoro, che è il famoso working holiday, che permette quindi di stare un anno in Australia con un permesso di lavoro full time e la possibilità di rinnovarlo per un altro anno. E poi sono circa 5.000 altri invece italiani che entrano in Australia con un visto studente, quindi che spesso hanno superato i 31 anni e che hanno voglia o bisogno appunto di studiare in Australia, più vanno considerati tutti quelli che entrano con un visto turistico e poi decidono di rimanere, quindi non è una vacanza ma si trasforma in qualcosa di più. Quindi avevo calcolato circa 25.000 arrivi l'anno. Le città dove si dirigono maggiormente oltre a Sydney? Beh, Melbourne sicuramente e poi naturalmente anche un po' Brisbane, Perth, Adelaide, che sono secondo me un po' le nuove mete. In brevissimo, le professioni normalmente più richieste? Si trova moltissimo lavoro nelle costruzioni, quindi richiedono proprio falegnami, piastrellisti, muratori e poi anche la ristorazione, che è uno dei settori trainanti dell'Australia. E poi ci sono altri tipi di lavori come appunto ingegneri, medici, infermieri. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.justaustralia.it. Un motivo per restare o tornare. Il bonus occupazionale di Garanzia Giovani raddoppia il suo importo per le aziende che decidono di assumere a tempo indeterminato il tirocinante. Lo rende noto il Ministero del Lavoro spiegando che il bonus varia tra i 3.000 e i 12.000 euro a seconda dell'occupabilità del giovane e vale per le assunzioni stabili che si faranno entro fine anno, ma solo per i tirocini già avviati entro il 31 gennaio. Questa integrazione rientra tra le iniziative che da inizio anno hanno dato avvio alla fase 2 di Garanzia Giovani. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di aprile. Al di là delle mete più classiche come Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, quali sono a vostro parere i paesi nel mondo dove consigliereste un espatrio in termini di maggiori opportunità e di, se vogliamo, originalità della scelta? Quali sono insomma le nuove frontiere in un mondo globale che si evolve velocemente? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare in onda. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo voi. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.